1, 2, 3, 4, 5 audio. Cambio, c'è uno canale 10, attenzione canale 10. Si ci seguendo una libellula in un prato. Oh, mamma! Buonasera, cambio. Attenzione al canale 10, attenzione al canale 10, cambio. Ciocco ciò. Che, attenzione, avanti. Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Hola. Che? Buonasera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Ora. Chi è Zese? Antonello, buonasera. Oi, Pompurio, e allora, tutto a posto? Tutto a posto, più o meno. Ciucu. Pronti, ci sei. Dimmi, Pompurio, dimmi. Ah, già ci sei, pensavo che non c'è. Sono qua, sto facendo una cosa, un attimo. D'accordo, dai, già sono qua all'ascolto. Tanto sto facendo... qualcosa anch'io, di qui, quindi figurati. Beh, cazzo qui è fatto male. Questo cicalino, ah? Fini guai, che mi hai svegliato. Vabbè, cicalino ce l'ho ogni tanto di là, ma non è, lo uso quasi mai, la verità. Claudio. Mi sono entrato adesso in stanza, stavo facendo una riparazione alla stufa. E niente, dai, vi ho sentito, rimango anch'io in quel rix, saluto anche Eugenio, vi ho sentito e ci sentiamo dopo. Ok, no, è confondibile con le BP dell'OMS 200. Lo so, può rubare questo apparecchio, quando lo senti è come quando c'avevo l'FM500S e io nell'apparecchio di Andrea Maricumio, che poi sono entrati in 27 e erano entrati la veloce e gli ha detto che bala che lo c'hai, dice c'è un FM500S, gli aveva detto. Ah bello, aspetta che vengo così me lo compro, cazzo, a un certo punto l'ha trovato, cazzo, ha già male, l'abbiamo fermato in 3, se non l'avevo ficcato tutti e 3, cazzo, lì alla troce. Vabbè, quelli sono radio che non si danno, no. Io di quelle radio lì vintage non ho neanche una, assolutamente, ce le ho tutte e me le tengo perché sono belle da tenere, va bene, e questo non dicendo niente, rimango un attimo in Rix e ci sentiamo tra un attimino, ok? Vabbè, già sono qua l'ascolto, tanto io qui. Sto sistemando un pochettino un po' la camera, quindi a un certo punto già non c'è problema. Poi c'era qualcuno in U che stava parlando, cioè stava schiacciando e poi sparito in PMR sul canale 8, gli ha detto c'è il canale 7, poi gli ha detto c'è mai sul 9, gli ha detto è sparito, quindi figurati tu. A un certo punto qualcuno che frequenta lì varie volte, a un certo punto ha mollato e se n'è andato due canali più su. Sì, vabbè, io non ci bazzico in PNRR, non mi interessa. Va bene, dai, rimango un attimo in QRX, già ci sentiamo subito a fare una cosa. Va bene, non c'è problema, fai pure, non c'è problema, tranquillo. Adesso sono qua. Ciao Cla, buonasera. Spera mi si abbassi il QRM, c'ho il QRM A8, è un casino. A8 e QRM c'hai, il cazzo. Non riesco a capirti, no, se arrivi quanto il QRM. Otto c'hai il QRM A8, ho detto. Ehi, A8. Cocco, come mai di alghero è così alto? Non lo so. Cosa c'è oggi? Ho detto qua, c'ho il QRM A8, è possibile. Però si sente, non è QRM normale, sente drrrr. Io non ho QRM, non lo so. Cos'è che non ci avrei preapplicato l'antenna inserito? No, ma io non ho toccato niente. Qual è il... dove c'è scritto preamp? Dove l'hai inserito, in dentro o in fuori? No, non era inserito. L'ho inserito io adesso, no, non era inserito. E già c'è QRM, già c'è, io in 40 metri c'ho un sacco di QRM, ma qua è 27, vabbè, io qua in questa zona non ne ho, però lì dove sei tu, in zona mare, provassi pure, c'è un po' di QRM, vabbè, questa è radio, questa è uguale alla tua, no, QRM non è che ne bigliano assai, non lo so. No, se c'è come un disturbo, non lo so, provo a staccare l'alimentatore e metterlo direttamente alla presa, staccando la ciabatta. No, non penso, fammi un video, mandamelo, ti dico, c'è un disturbo atmosferico, è normale, a volte ce li ho anche io, ce li abbiamo, questi disturbi, questi rumori un po' particolari. Fammi un video, fammelo sentire, mandami qualcosa, se no non ti posso rispondere. Ehi, adesso te lo mando, te lo faccio un attimo. Fammelo, mandami questo coso. Sulla radio, fammi vedere lo smitter, fammi vedere un po' tutto, vediamo se un rumore atmosferico. Adesso ho attaccato il 140, beh, mi senti adesso? Anche io ti intendia prima. No, c'era quello del MS200. Ah, lì sotto il QRM, in mezzo al QRM, lì. Quasi 9.30. E appunto adesso sono con 140, quindi figurati tu. E aspetta, sta facendo un video, così capiamo che rumore è questo. C'è lui, vediamo un po'. Ah, vabbè, ok, non c'è problema. Io ho il 141. Ciao, bello bene, bene. Anzi, 142. Senza considerare l'IVA e con lo sconto dell'80%, mica. Ciao Lu, buonasera, ben ascoltato. Buonasera a tutti. Ciao Luca, anche a te. Poi c'è uno che ha fatto il maniaco, avanti. C'è che è il calore, avanti. Io cambio. Avanti, cambio. Ciao Luca, buonasera, se ti ascolto. Non lo so, boh, non ti ho sentito. Forse Luca non ti ha sentito. Se non ti avrebbe risposto subito. Adesso mi senti meglio di segnale, posso togliere. Cos'hai detto, il segnale? Se è molto più forte, ho detto. Sempre quello, Vabbè, no, ho cambiato l'antenna, ma sempre quello, Vabbè, tu hai cambiato l'antenna adesso, io ho cambiato l'apparecchio adesso, quindi a un certo punto. Adesso, 150, 1 volta, 4, 5, 6. Riprendo subito, Un attimino, sto facendo una cosa, riprendo subito. D'accordo, d'accordo. Ciucucciucucciu, avanti, qua. Scalo si è spostato lentamente. Avanti che c'è rimasto. Ebbe, gente! Ebbe, come andiamo? Ascolta, siamo a vero, mi. Scappa! E beh, tu, come andiamo? Un po' con quelli gli occhi dati, ma che andiamo? Ho capito, hai capito la voce? Ho detto, un po' con gli occhi dati, ma ci andiamo, vai. Vabbè, siamo tutti i giorni con gli occhi dati, mi, questo periodo, io, sai anche tu, a un certo punto, c'è poco da sbagliare, mi, siamo tutti incazzati, siamo. Va tutto male, ma boh, se più cosa cazzo fare, se andare a ammazzare le persone o cosa. A un certo punto ti alzi la mattina e cominci a avere stato, ti arrivano bollette, eccetera, eccetera. È un casino. Io vi dico la mia, ne sono appena tornato dalla camera mortuaria. È morto il figlio di un amico a 25 anni per infarto fulminante. E io lo chiamo questo un raio bedu varado per tutta la famiglia perché sono disperati. Per cui vicino alle bollette, ai malumori coi colleghi, a parole dette e non dette o capite male, di gente che si offende, ma cosa cazzo, ma fottetevene le balle, che quel ragazzo aveva 25 anni e ancora non aveva, era all'inizio della vita, non aveva fatto ancora niente, ed è una tragedia immane quella. Il resto, vicino a queste cose, il resto non c'ha più valore. Scusate un secco, Eugenio, guarda i messaggi però, rispondimi subito, non la guardavo i due ore, Eugenio. Ehi, poi, cazzo, vabbè, guarda, avete 5 anni, se avete messo anche la firma, non sono l'altro, se non parla di tasse, non è niente, per il fatto fulminato ci avete messo la firma, la verità, non mi ha fregato proprio niente, di tutto, di capello di tutti, tutto per che altro, per il padre, per la madre, quello che soffrono, però a un certo punto con quello che stiamo passando, meglio che sia andata così, guarda, molto molto meglio. Meglio morire così che morire sotto un treno, sotto un coso, che ti ammazza qualcuno, che ti accoltelli qualcuno, che è molto peggio. Eugenio. Quali tu Eugenio? Tirali le orecchie, Claudio! Sì, lei, cazzo, mi la buona animale, nel centro storico, cazzo. Meno male sei rimasto solamente tu nel centro storico, se ne sono fuggiti tutti, se ne sono fuggiti, cazzo. Ce ne parlo di rimanere di lì, cazzo, l'unico che sei rimasto sei tu, di lì. Sì, che... Continuo a votare il portafoglio anche a te. Ciao Antonio, buonasera. Mi è sembrato di sentire anche Luca, buonasera anche a lui. Genio è sparito, Claudio lo sta cercando. E infatti, appunto per quello. Sì, ma posso anche io al centro storico in pratica. Lui in questo momento non lo vede, ma con cane vega. Tutti morti sono. Sei saturo Antonè. Ehi, ciao, vabbè, aspetta che scendo di guazzo, va bene così? Così già va decisamente meglio, ciao, buonasera, non so con chi stai parlando. Ciao Carlo, Luca. Cazzo di bimbi. Uè, Anto. Cazzo, sei un coso, sei bimbi. Questo bimbi. Ciao, va bene, mi hai sentito, sei tu e mi hai ascoltato, Carlo. Antonio, dammi un controllo, fammi piacere. 1, 2, 3. Check radio, guarda com'è il segnale e la radio, dimmi com'è. Entro più tardi, capito, perché devo... riuscire, che devo dare un passaggio a mia figlia, quindi devo riuscire e rientrerò tra una mezz'ora. Se ci siete ancora, già rientro. Vabbè, non c'è problema. Cazzo, ma una segreteria telefonica, mi sembri. Ah, con la, il bip, sì, qua sto usando la radio, il baracchino, diciamo, non l'altra. Ho acceso questa che è più facile, con questa accendi e trasmetti, l'altra deve scaldare, già lo sai, poi. Ciao Carlo, aspetta un attimo, Antone, dammi un controllo, Fabio Biasetti. Prova un po'. Check radio 1-2-3-1-2-3. Prova. Come la Sindria, alla prova. 9:15:06 alla Sindria. A posto. Congelata, tranquillo e da vendere. Vecchi. Ok, grazie del controllo, ciao Carlo, ci sentiamo dopo, ciao Gianni, avanti. Buonasera, ciao Carlo, se sei andato via. Buonasera a tutti, dai, ciao Gianni, ciao Antonello, non ho fatto molto ascolto, ho acceso adesso, dai, per la verità non ho fatto ascolto. Ho sentito che stavo andando via Carlo, va bene, dai, allora ci sentiamo più tardi Carlo, dai. Avanti di nuovo Gianni, poi fai girare. Eia, c'era anche Genio e Claudio che lo stava cercando. Oia, Claudio ci sei? Ciao cittadino, mi rispondi a Eugenio. Ciao qua, buonasera a tutti. Ciao Claudio. Buonasera a me. E Antoine. Ciao Antonio, mi coppi? Quella cosa là è portata al beccare. Posso? A posto la macchina. Va bene, è meglio così. Cava. Gianni, che ci racconti? Ehi, volevo sentire se Antonio mi copiava. Antonio, mi ricevi cambio? A Puglia ti ricevo, non è 80 euro a peso. Dai, non è tanto. Ma che ti ricevo? Mi sento tutti bene, mi sento. E perfetto, sei via Milano? Non sono via Milano. Il segnale è molto vicino comunque. Sono via Milano, sono qua vicino, ma sei qua vicino sì. Scappa, perché a fondo scala? Prova a fare il passaggio, te lo dico subito. 1:30, chi c'ha? 9:30, sì, 35. Al quadrato siamo. Ha visto che è indovinato. Se guardo il titolo di Roberto dell'acqua del comune. Tanto dipende che guarda il segnale. 1:03, la pepina per caffè. 9:10, la radio 5. 9:10, radio 5. Visto, va bene, va benissimo, tutto a posto. Scappa, meglio di così. È un buon segnale, 9:10, dove abita Gianni. Ma sei liscio o sei attaccato? Secondo te? Lo so. Io ci arrivo da liscio in questa zona così. Non lo so. Esiste un problema. Cappa. Guarda, adesso la Ferrarelle, liscia. Che adesso se sei a mezzo? Io quando ti arrivo con la zona tu, ti guarda il segnale. 1, 2, 3, 4, 5. 9:10. Adesso ho aumentato, vero? Prova. 1:03, 1:03. Sì, adesso sei 9:10. Aumenta bene, dai. È un bel legnaletto quello che c'è in macchina. Vabbè, io non ne ho in macchina, dai. Ma non ne ho bisogno, va bene così. Scappa. Bisogna farle uscire. Cosa tu? Bisogna farla uscire l'antenna, bisogna farla uscire. Ehi, anche se può sciogliere anche. Una volta uno dal quadrato stava uscendo e gli si è sciolta l'antenna. E si è scaldata e si è fatta ruia ruia. La gana, forse capita a me. No, chissà, se un chilo ha fatto bene, non penso che la sciogli, no. Ma non era un chilo, ma che c'era per macchina apparato qui, non era un chilo. Ha scaldato proprio. Ma questa antenna tiene un chilo a fatto, quindi non li fatti nulla. Ma non ti vuole un chilo fatto in macchina, no? Se ti sciogli la batteria, non ti sciogli l'apparato. Avanti già. Gianni. Non risponde. Mi prendi Antonio, beh, come andiamo su? Così la verità a me. Sono proprio così, diceva quello. Vabbè, diciamo, meglio di niente. Dico sempre, per andare in peggio è meglio così. Esatto, sì, bravo. Vabbè, accontentiamoci, dai, accontentiamoci. Un giorno è brutto, un giorno è bello. E che devi fare? È come il tempo. Già me ne sono accorto, infatti. Tanto un girella, sì. Sono uscito da casa perché ero nervoso e se sto più male, capito? Sei con bambino? Sì, gli ho messo la bing, gli ho messo e già sta buono. Andiamo a casa di sola. Si sente. Gli ho messo il cartone animato e lui sta buono. Eugenio qua. Non l'ho sentito Claudio, per niente. Eugenio, ciao a tu. Eugenio. Buonasera. Io riesco a comprendere che si riuscì a battuto. Cosa c'è? Tante cose. È che bisogna spiegare una voce, perché se no qua no. Non fa. Non gliela voce veniva, non gliela voce veniva una, cazzo. Allucinante, non riesci a stare tranquillo e sereno, cazzo, più ti vengo, più ti vengo, sei sempre, c'è sempre qualcosa che non va. Da 2 anni a questa parte non c'è più niente che fa bene. Prima ero una persona serena, tranquilla. Non c'è, credimi, non fa più nulla che andare bene. Intanto io te lo dico da persona grande, bisogna prendere le cose come sono in questo momento, perché la situazione è un po' difficile per tutti, per chi ne ha e per chi non ne ha, e ci sono tante cose che non stanno andando bene. La vita purtroppo è troppo cara, tante cose non vanno, la salute che sta venendo a mancare un po' per tutti, chi c'è un dolore lì, chi c'è un dolore là, e la famiglia è quella che è. Bisogna tirare la matracca, tirare il piegato, bisogna tirare la matracca e abbassare la testa, perché più ti incazzi e peggio è, credimi, più ti incazzi e peggio è. Io l'ultimo anno, prima di andare in pensione, me ne hanno fatto uscire gli occhi, sai cosa vuol dire mi hanno fatto uscire gli occhi? Non ci avevo più casa, ero sempre al lavoro, sempre al lavoro, sempre al lavoro, ed ero, stavo per scoppiare, però purtroppo devi mantenere, anche se no è peggio, e questo ti dice uno che ha lavorato per 41 anni come Gianni, ti può dire la stessa cosa, che ne hanno fatto tutti i rigurori, eppure è riuscito a tirare avanti, a mandare avanti la famiglia e a ritirarsi tranquillamente. Hai detto bene, la famiglia. Dunque, questo è un meraviglioso, c'è cioè, mio figlio, mia sorella e cose che non è rimasto più nulla in ovvio. Hai detto una cosa giusta, guarda. Lo so Anto, ma la vita purtroppo è così, la vita è così, è andata male, è pazienza, ma devi vivere, ricordati sempre che c'è un bambino tu, lo devi fare grande questo bambino, come lo cresci questo bambino tu, vedendoti così sempre incazzato, vedendoti nervoso, vedendoti a tappare della roba, guarda che i bambini percepiscono tutto mia tu, e poi viene difficile addomare la situazione. Gianni. I bambini sono come filtri, assorbono tutto ciò che c'è attorno, è normale. Vabbè, lo so, ma questi momenti può averli perché non ha subito una cosa normale, dai. È da capire. Vabbè. E cosa devi fare? Mia sorella lo stesso, era sposata da un anno quando gli è morto il marito, si è preso la leucemia alla SIR, era vicino all'impianto dell'ammoniaca, erano sposati da un anno e gli è morto il marito, e praticamente ha fatto, nascendo il bambino e ricoverando a Parigi il marito, e poi non ce l'ha fatta. Lo so già, sono dolori che non si possono neanche quantificare, però purtroppo bisogna cercare di reagire, perché se non reagisci è ancora peggio, diventa un problema ancora più grande, capito? Lui adesso deve pensare che c'ha un figlio da mandare avanti e da farlo bravo. Poi il figlio già sarà riconoscente nei suoi confronti, vedrai che sarà riconoscente altrove, e poi sarà lui a aiutare a te quando ne hai bisogno. Cercare di arrancare, arranca e basta, cosa devi fare? Purtroppo è così, il lavoro quando c'è d'estate, lo sai, quel lavoro che fai tu va a porte d'estate, poi d'inverno cala, a meno che si faccia qualche teatro, qualche cosa, se no cala. Vabbè, ci sono altri problemi che... che non l'ha avuti, tutti ce l'abbiamo avuti, claro. Io allora a me manco mi salutavano, quando entravo mi dicevano già c'è da andare velocemente al ghero, vedo blablabla. E io dicevo lasciatemi respirare 5 minuti, ma cosa non vedi? Cos'è la vita dell'ansia, ma dove? Ma cosa fai? Su veloce canzone alla Gigetto. Zio Fonso sta a fare un sotto ragazza e Sosso non è proprio tutto, avanti Sosso, buonasera. Scappa, purtroppo ci sono dei che la gente non capisce, che la gente è cattiva, credetemi, è cattiva la gente, è molto molto molto molto cattiva, e c'è gente che vuole presa, brucia o fatto un posto e sono tirata, perché da questa cosa mi fermo qui, mi fermo, se no... se no lavori di nuovo. Io quando tornavo a casa la spina la staccavo, io se no tornavo incazzato, a volte me ne andavo a pescare un'oretta prima per rilassarmi, perché magari ero nervoso, e poi tornavo a casa. Quando c'è tentaglia che prende la tua roba, la cosa del cazzapiede, ne dico solo una, così mi fermo, se che stai travagliando tranquillo e cosa, ti piglia la roba tua, ti racconta a terra e poi ti incazzi come una bestia e cosa, cioè, ti dicevi che non ne ha fatti nulla perché sono arrivato in ritardo, perché ho avuto problemi col bambino che l'altro giorno mi è sparito, cioè per una bidella a testa di figlia, mi è sparito il bambino, ma non me l'ho trovato dentro un'aula. E arriva al lavoro e poi ti dice ragazzo che non è appuntinuta di starmi zitto e cosa, e vanno in ufficio poi a spifferarli tutto, cazzo, colleghi, giovisti, cazzo, mamma mia, cazzo, qua lo sto facendo per Gabriele, perché a tempi l'abbia pigliato, ma io non chiami, io vieni qua, vada bum, finalmente a crepallo, io vai, girami le palle, vai. Non sai come intero assistente, altrimenti ti avrei messo il piede in collo, non me ne fregava niente, vai di rucca, non me la... Sergio Gustiero. Dovendo mi trattenere con la rabbia, con le cose, questo è proprio un limite. Lasciamo perdere, vai, non voglio aggiungere altro. Che altro non mi sa, se non è peggio. Lascia ti ci vuole tutto addosso, perché non c'è solo il lavoro. C'è il lavoro, ma c'è Gabriele, ci sono altre cose. Tu pensa alle cose positive, quando succedono queste cose, non pensare a quelle negative, se no puoi stare male. Avanti, mi sembra che è tratto Eugenio, se non sbaglio, cantando. Eugenio, tu dici? No, non era Eugenio, allora era Antonello. Antonello. C'era Eugenio, c'era, la verità. Poi, vabbè, sono stato io, non è quello il problema. Eugenio ci stava lavorando eccetera eccetera, e quindi non c'erano, diciamo, dei problemi più che altro. Tutto lì. Ah, bene, avanti qua. E probabilmente è andato con Eugenio, lo stava cercando. Ah, sono stato sì, boh, magari sarà così, una cosa del genere. Sto potendo dire, sono legato ai trapagenti, io no, che avevo di farmi fare i corsi, per avere qualcosa, durante il mese pure, avevo di farmi fare i corsi, gli avevo detto, i corsi di artigiani e tutto, nella stessa vita, vedendo questi miserabili lavorando, e io no, perché sono messi che glielo dico, porco Dio, che, mamma mia, qua, non mi voglio incazzare, scusate. No, bimbi, tu stai male se ci pensi. E tu sei peggio, la verità è peggio. Quindi, a tutti i dini, è capitato anche a me una cosa del genere, quindi... oramai, ho lasciato perdere tutto, tutti, eccetera, eccetera. Sai cosa faccio? Io me ne fotto, perché altro. Me ne fotto, me ne vado al circolo. Mi bevo la birra, mi distraggo con gli amici, quello che è, bevo la birra, poi rientro a casa e sono tranquillo. È stato molto restare aggirati le palle così, stare a casa, incazzate, cosa del genere, è peggio, è veramente peggio, capito? Quindi, ecco perché, guarda, io non vedevo quando rientro a casa, che sono nervoso, che non è, prendo, esco, me ne vado per dire al circo, mi vado una birra, quello che, con gli amici, quello che, eccetera, eccetera, poi rientro a casa e sono normale, tranquillo, ragiono meglio, la verità, ragiono veramente meglio. Quindi, comunque sia, io la penso totalmente diversa da te, Anto. Tu c'è un bambino, quindi è logico, ma io ho simulato a un certo punto a sopportarmi, quindi io voglio avere un bambino, tale uguale. L'altro giorno ho speso 100 euro e ti sto dicendo che non mi è rimasta mai quella lì, nella carta lì mi sono incazzato, poi ho preso, ho lasciato perdere, sono entrato al bar, due minuti, ho bevuto un coso, dice ma rilassati, mi avete, eccetera, eccetera, mi sono rilassato, sono entrato a casa. E mi sono ubicato tranquillo. Sì, se no guai, cazzo, 100 euro, cazzo, in medicina, cazzo, ma me la vai, cazzo. Cioè, ne ritiri 700, 500 per pagare tutto quello che c'era da pagare, e 100 euro cazzo in medicina, cazzo. Boh, aiuto. E cosa cazzo mangio io? A un certo punto, mi mangio cazzo, come si chiama? Boh, non lo so. A un certo punto mi sono fatti i conti, allora piano piano, adesso risparmio e quello che c'è mangio, mi faccio la spesa come si faceva prima, un mese di spesa, adesso me la faccio solamente giornaliera, boh, basta, non conviene più farla per un mese, non conviene più, perché ci rimetti, quindi a un certo punto conviene fare la giornaliera, ciò che ti serve, prendi e basta. Ehi Antonio, ma non hai esenzione, Simona? L'esenzione, lascia perdere quell'esenzione di cassa per c'ha, come ce l'ho anche io. Che cazzo di esenzione c'hai? Con 60 peggiatori di invalidità, che cazzo di esenzione c'hai? Lascia perdere, fotti di. Come, guarda, lavorare che è meglio e basta, andare a dare il culo, tanto per dire, io lo dico tanto così per dire, ma a un certo punto, sì, guarda, conviene fare come fanno su internet, la verità, mi metto cazzo in costume da bagno, in costume del genere, cazzo. Ti piace cosa del genere? Cioè, io andiamo su Giangi, su WhatsApp, quello che è, eccetera, eccetera, mi carichi la carta, mi faccio mandare la carta e mi faccio i soldi così. Come fanno tutti? Tutti stanno facendo così ormai, hai capito? Ricchi, poveri, quello che è. Si stanno facendo i soldi con i soldi degli altri, hai capito? Ma è così. Di essere furbi ormai, di diventare furbi come gli altri. I ricchi, cazzo, diventano ancora più ricchi. I poveri, cazzo, sono i coglioni, cazzo, quelli che gli danno in pratica i soldi, che ti scrivono, cazzo, ti amo qua, ti amo là, eccetera, eccetera, un'attrice, eccetera, eccetera. Hai capito? Tutti stanno facendo così, tutti quanti. Quindi a un certo punto bisogna fare la stessa identica cosa, bisogna metterci il costume da bagno, hai capito? Se è possibile, cazzo, che si verrà nel costume da bagno la proboscide non fuori ma dentro, a un certo punto, cazzo, e comincia a fare il follower e cose del genere, e da lì guadagni, e comincia a incassarti i soldi, hai capito? Il costo è quello, bisogna fare così. Ma tu non sei una femmina, no? I femmini li fate i cicosi, tu non sei una femmina, puliti in costume. Antonello. Avanti anche tu. Già mi metto il coso io, non ti preoccupare, me lo metto in plastica, mi faccio la... come ti posso dire, cara? Intanto si può fare tutto quello che vuoi a me con la IA, con l'intelligenza artificiale, mi faccio fare la foto da donna, hai capito? Quindi a un certo punto, cosa ne sanno loro? Sono tutti con l'intelligenza artificiale, mica... Quanti ne sono dei cazzo originali di quella ragazza? Mancuna, neanche una, sono tutte fatte con l'intelligenza artificiale. E filtri, intelligenza artificiale, un po' tutto. Antoine, mi prendi. Ma quando mai? Antoine è il costume, ti immagini tutti i cugini? Ma che non l'hai visto? Vabbè, io gli faccio vedere la proboscide e poi vediamo un pochettino chi si aggancia. Facciamo finta che siamo a porto di produttore, si capito? A un certo punto io lo va a pescare. Ma che si onta, cosa proboscide? Dio che tu sai! Tanto lei fa da bravo, non mi parli di... Gianni un profeta, ci sei? Ma che sei disgraziato tutti e due? Cavolo, non si può dire nulla. Sto scherzando, Antonello. Ma se c'è già lo fa, già lo sai. Se tu senti quello che scrivono, cazzo. Non è che ti scrivono la femmina, ti scrivono la maschio, hai capito? Cappa. Ma cosa si dice? Pagando mai. Cazzo, pagando mai? Sì, è vero, mica. Se tu guardi quello che ti scrivono, risponderti, non ti scrivono da maschio, ti scrivono per donna, hai capito? Hai capito? Non ti hanno preso per maschio, ti hanno preso per donna, quindi il discorso è diverso. Poi potremmo mettere a Mantonella, ci vediamo. Però questi tu non trash. gira sì, mi dà questa France e mi faccio mandare i soldi, mandami la carta. Quanto vuoi di carta? 50 euro voglio, amore. Quando ci vediamo, l'anno prossimo ci vediamo, non c'è problema. Adesso non posso venire perché sono occupata, eccetera, eccetera. Ci vediamo l'anno prossimo, eccetera, eccetera. Ti provo, cara, dopo ne cava. Magari che mandingo, cara, ne cava che sta cosa. Allora sì che proposti davvero. Ciao, Antonella! Sì, ce l'ho, non ti preoccupare. Ah, cosa va, pionda? Ma non ti arrivo già da qua? Già. Ti arrivo bene da qua? Sì, sempre lo stesso segnale, alto 9:10 quasi. Sei più vicino. Ma la radio è perfetta, che macchina stai usando? Sempre quello. Va bene, ma la radio è limpida, proprio buona. Caffa. Va bene, hai visto? E tu pensavi che andava male. Ti faccio schiattare, ti faccio. A me? Tranquillo, mi fai schiattare a me. Cos'è questo? FM500S, a tu? Ehi, quello lì. Quello ce l'avevo anche io, poi dalla macchina l'avevo rubato. Sono sceso dalla macchina, sono salito a casa di mamma. Sono sceso giù, c'era un vetro spaccato e me l'avevo attaccato. Non fa orgoglio, no? Cosa? Il tuo sacro cuore me l'ha preso. Ho detto, non farà il tuo, no? Ah, non lo so, ce ne erano tanti in giro. Ce ne erano un bel in giro. In quel periodo lo usavano molto perché si metteva un microfono della Intec, quello che aveva, cioè non l'ho più visto. La gratta, quella gratta in coso, in metallo. Quello lì andava un po' bene, sembrava che aveva l'amplificatore che usciva. Quello è il coso, l'Intec era. Sì, nella Intec, perché l'FM500 era nella Intec. Lo faceva uscire un po' bene, tanto è vero che a quel punto si diceva stacca lineare, paga lineare, non è un lineare, facciamo così i polsi. Poi l'avevo dato, lo sai a chi? A quei costruttori, quelli che avevano messo la sede lì alla Rena Ritta, e un ragazzo mi ha mandato un baracchino, il console, l'alimentatore. Ah, figurati tu. E invece a me, alla sede di prodotto, se mi avevano fregato il telefonino, a me da poco. Praticamente è affannato la vettura. Tanto, come mi senti in lontananza? Benissimo, già, sono via Milano. Cappagata. La radio è buona, Buonissima. Cappagata. C'è il peso che vuole scendere, non lo so come mai oggi. Niente, sono già di 7, so. Ma di solito scende alle 7:20, 8:15, adesso è presto, ma se sta la metà, ma dove se ne va la diarrea, adesso ho posto, ci sentiamo ragazzi, statevi bene, poi magari non riaccendo l'apparato. E io ok. Vabbè, proprio pochi, non c'è problema. Adesso l'ha fatto un bel bene, me l'ha fatta. Adesso sì che la pressione è a posto. Ho capito, ma la pressione, sì, che cosa? Della macchina, la pressione. Ah, vabbè, a voglia. Adesso è a posto. Sì, a voglia. Idraulica, E quindi ho avuto cambiare la pompa. Di cambiare la pompa? Ah, la pompa della pressione dell'acqua. E la pressione idraulica, capito? Ah, ecco, aspetta, scusa, avevo capito male. Stavo schiacciando sul coso, in PMR. Quindi figurati. Se c'è qualcuno invece non c'è nessuno. Capo, dai, bianco per me che sto scendendo, hola. D'accordo, a dopo, ciao. Ah, via. mia assenza, ma ero in prove tecniche di trasmissione. C'è nessuno? Lupo dei lupi. Ehi, a me, mi sto fermando un attimo in via Napoli, sto comprando una cosa al volo e riprendo. Ehi, io sono qua, vai tranquillo, non c'è problema. Gappa. Hola. E dove Antonio? Allora? E dove sei? Ancora in giro in macchina o sei rientrato a casa? Ancora in giro in macchina, sono in via Napoli. Che sono dovuto, mi sono fermato un attimo a prendere un panetto di burro. Ecco, fagliami arrivi bene qua, 9 più 15, radio 4, perché sarà in mezzo ai palazzoni, però segnale forte, la radio buona. La radio è 4 perché non me lo metto in così, sto mettendo le marce. Esatto, magari hai anche il microfono lontano se stai guidando. Sì, no, già ci arrivi bene qua, da quella zona. Stoppa. Andiamo. Non mancano mai, vabbè Anto, pazienza, stringere i denti e tirare avanti. Oi. Mi ho buscato un lavoretto per domani mattina. Allora, ma cuca che cosa recupero? Speriamo bene, dai, che insomma. Tutti gli altri sono tutti andati via. Era Claudio. Io sono rientrato adesso e niente, e quindi io ho detto, ho sentito a te e quindi ti ho risposto. Gappa. Dopo più tardi ti chiamo. Io va bene, tanto io sono a casa. Adesso mi sono ricordato c'era la partita, ma è finito il primo tempo e quindi come sono rientrato acceso e toccavo, me ne stavo dimenticando. E adesso è finito il primo tempo e sta vincendo la Juventus 2-1, stava perdendo 1-0, poi ha segnato subito, pareggiato e poi ha fatto il secondo gol pure. Non sta giocando male la Juve, dai, però e niente, poi già sono a casa, Anto. Se io voglio adesso la metto in diretta, se io voglio. C'ho Nao in macchina. Ah, ok. Tu vai con la macchina. Occhio, che non ci siano controlli, vabbè, ma magari c'hai Gabriele, immagino. Io ho messo il cartone animato a Gabriele. Ah, ho capito. Quindi adesso rientri a preparare la cena. E io lo stesso dopo mi devo organizzare la cena, capito? Ti lascio acceso comunque qua, Antonio, Ma no, io che sono qua in via Mendola adesso. Io ho tutto in macchina, io sai la notte. Quando la notte Gabriele, che non ha giocato, sta a casa. Lo sai, a te qui mi guardo. Tu non ha mai visto il mio stereo, una TV, ho capito. Sì, io praticamente col telefonino faccio tutto, capito, Anto. Anche in macchina quando mi capita così puoi guardare la TV sul cellulare, film e quant'altro, ma poco mi capita a me, tanto c'ho lo stereo, a volte mi sento un po' le notizie, la musica, capito? C'è pure il navigatore satellitare nello stereo, quindi ho tutto là. No, quello che ho io è bello. Chi ci fa di tutto mi. Certo, ti puoi mettere Sky, ti puoi mettere tutto. Io ce l'ho. Ce l'ho Sky. Now, dai. Altre le volte mi guardo la Formula 1 qua. È un'idea tu. Che comoda la macchina, mi sveglio appena. Mi guardi tu con l'altra notte non c'era Gabriele. Mi stavo guardando i documentari. Non che faccio tutto io, è un bel comodo lo stereo così però. Lo so, certo. Lo credo che è comodo, se se ti capita di stare in macchina ci puoi vedere qualsiasi cosa. Va benissimo, va. Vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare sul 10. Nuda, nuda, non c'è nessuno. Dove sei arrivato, Anto? Oh, qua, che cazzo è? Via Padazzina, no? Dove c'è la cosa? Onde per un carrozzolo di riposte. Ho capito, è quasi a Santa Maria, dai, quella zona là. A Santa Maria sono. Adesso proprio sopra il sottopassaggio. Sempre qua, 9.10, 9.15, capito, già arrivi bene. Gappa, io già... cioè, nella mia macchina non mi manca nulla, ho tutto. Pure se invece mi avrei tutto. Non ho pagato neanche 150 euro, l'avevo pagato questo serio, 149 euro un po' di tempo fa, ma va tutto, va. È buono, buono, buono, vuol dire che già è ottimo e funziona bene. Sono anche brutto scaricato, ci sono i film lì. Quindi domani, Antonio, sei a lavoro domani mattina? Devo fare un lavoro, devo fare, sono qua in viale Porotone. Ah, va bene, io domani sono libero, fatti sentire se sei in macchina, se, ovviamente se puoi, tanto già io accendo, tanto di mattina mi prendo il caffè quando mi alzo con calma, faccio colazione, poi mi accendo la radio, se c'è qualcuno da chiacchierare mi metto col computer e già sono in radio comunque. A me mi faccio qualche soldino, dai, cosa? Sto lavorando pure io, non è che... cioè, però mi interessa incassare, mi interessa incassare. Lo credo bene, lo credo